5C. Ascolta e completa. Ti va di leggere? E allora leggi. Ti va di scrivere? E allora scrivi. Ti va di attendere? E allora attendi. Ti va di correre? E allora corri. Ti va di ridere? E allora ridi. Ti va di piangere? E allora piangi.